9 in punto. Sono le 9:12 minuti, sono Alessandro Milan, non sono Oscar Giannino che tornerà nei prossimi giorni. State tranquilli, cari ascoltatori, e di cosa parliamo oggi in 9 in punto? Beh, un paio d'anni fa Massimo Fini, che è un intellettuale sempre controcorrente, parlando del processo in Germania al cosiddetto boia di Sobibor, John Demjanjuk, scrisse: a me questi processi ai nazisti novantenni hanno sempre fatto un orrore quasi pari ai loro crimini. Parliamo di questo, cari ascoltatori. John Demjanjuk, detto il boia di Sobibor, è stato condannato in Germania perché è stato ritenuto responsabile di una macchina, dello sterminio degli ebrei, di aver ucciso nella Seconda Guerra Mondiale 28.060 ebrei, così definito il boia di Sobibor. Parliamo di questo perché ci vogliamo chiedere se sia giustizia e che tipo di giustizia sia quella che ha mandato un uomo malato di 91 anni che quasi faticava a capire le accuse che gli venivano rivolte, condannato, anche se poi non andrà in carcere, condannato a 5 anni, non andrà in carcere proprio per la sua età, per le sue condizioni di salute. Una vicenda che c'è in Germania, ma una vicenda che ci riguarda anche molto da vicino, che c'è in Italia, quando di tanto in tanto i giornali parlano di quelle stragi nascoste nella memoria, nascoste anche per anni in un armadio, il famoso armadio della vergogna, e poi rispolverate, le stragi compiute dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, che adesso, a distanza di decenni, a distanza di 60-70 anni ormai, vanno a giudizio e vengono giudicati responsabili di questi reati persone che magari hanno condotto la loro vita tranquillamente, per lo più in Germania, hanno 80 o 90 anni, alcuni 100 anni, alcuni sono morti senza rispondere mai dei propri crimini. Il 25 maggio, per esempio, o insomma a fine maggio, ci sarà una sentenza importante per la quale è stata chiesta l'ergastolo per 3 ex nazisti in Italia per l'eccidio del Padule di Fucecchio. Che giustizia è? È giustizia quella di condannare e giudicare persone a distanza di così tanti anni? Di questo vogliamo parlare. 800 24 00 24, se volete intervenire, volete accompagnarci in questa storia che raccontiamo intanto con il procuratore militare di Roma Marco De Paulis, che saluto. Buongiorno, dottor De Paulis. Buongiorno a voi. Voglio salutare anche Quinto Malucchi. Buongiorno, signor Malucchi. Buongiorno. Poi ci racconterà la sua storia. Lei, Quinto Malucchi, è figlio, intanto suo padre, ma tanti membri della sua famiglia, quanti, se ce li vuole ricordare, furono uccisi nella strage di Padule di Fucecchio? No, riguardo la mia famiglia, solo mio padre ammazzarono, come famiglia ristretta. Poi nei problemi dei Malucchi c'è stato tanti morti. Stati cugini, parenti, però nella mia famiglia, il capofamiglia era mio babbo, 45 anni, ammazzarono lui. Il 23 agosto del 1944, quante furono le vittime civili, inermi, indifese da parte dei tre ex nazisti, da parte degli ex nazisti? Tre sono ora sotto processo. Le vittime qui a Cintolese e dintorni furono 175, poi ci hanno aggiunto, perché il numero varia da 184, perché ci aggiungano qualche vittima fatta sopra Montecatini. Però qui nel paese di Cintolese, Castelmartini, Ponte Buggianese, qui vicino a Montsommano, c'era 175 vittime. Uomini, donne, bambini, insomma. Sì, siccome questa rappresaglia che fecero questa mattina non fu tutta uguale. Dove saremmo noi saremmo sfollati in Padule, perché la nostra casa era stata occupata dai tedeschi e ci avevano fatto un'autorizzazione di poter andare in Padule. Saremmo a 1 chilometro dalla nostra casa, e lì questa mattina cominciarono a sparare, ammazzavano solamente gli uomini che trovavano, le donne e i bambini no. Poi, fatto 50 metri, ammazzarono tutti che trovavano. Perciò hanno ammazzato una bambina di 6 mesi, di tutte le età, di 90 anni. Chi ha una donna di 93 anni, ne misero una in tasca, una bomba a mano. Ne misero in tasca del grembiule e la fecero saltare. Perciò cose raccapriccianti. Cose inaudite, certo. Colpevoli della strage sospettati anche il nono reggimento granatieri corazzati dei tedeschi. Ma poi ci racconterà questa vicenda che io voglio prendere, però raccontare proprio dalla Germania, e salutando Mimmo Candito, che è inviato della Stampa. Buongiorno Mimmo e benvenuto. Grazie, buongiorno. Mimmo Candito, tra l'altro, è un esperto di guerra, insomma, è un inviato che di guerra ne ha conosciuto. Tra l'altro, apro parentesi e non lo dico per piaggeria, chi non ha letto mai Reporter di guerra di Mimmo Candito, insomma, non può capire molto di cosa vuol dire il giornalismo di guerra, chiusa parentesi. Mimmo Candito, però, tu hai scritto anche sulla Stampa un articolo, un commento su che tipo di giustizia sia quella che ha condannato John Demjanjuk, boia di Sobibor, 91enne, malato, molto malato, per un eccidio gravissimo, avvenuto 67 anni fa. È giustizia? Sì, io tentavo di porre in termini ovviamente molto problematici una questione che riguarda le ragioni stesse dell'esistenza del diritto all'interno di una società, il senso della giustizia che accompagna nel corso della storia sempre la costruzione di una società, per cui non v'è dubbio che vi possono essere delle reazioni umane di sconcerto di fronte ad un vecchio di 90 anni, 92, 95, che venga portato in tribunale e quasi non intenda ciò che i giudici o i magistrati comunque gli vadano dicendo. E dall'altra parte, però, dicevo, questo senso della giustizia che deve sempre accompagnare il corso della società, nel senso che si può anche poi raggiungere un intendimento per il quale, proprio per ragioni umanitarie, non, la condanna non venga eseguita, ma il senso della giustizia deve essere sempre riconosciuto, accompagnato e sostenuto dalla società, perché è la ragione di fondo che consente la sopravvivenza dell'identità stessa della società. Se non vi è una legge che sempre prevalga sulle ragioni contingenti e quindi anche sul decadere fisico di una persona, non vi può essere idea stessa di società, credo io. Ma quella non è anche una giustizia che si può scrivere, una giustizia storica, per esempio, che è altra cosa rispetto alla giustizia che è certificata da un tribunale? Certo, però non credo che vi possa o vi debba essere alternativa fra le due cose. I percorsi della ricerca storica hanno il loro tracciato ed è giusto che questo venga perseguito fino in fondo, ma è giusto anche che agli uomini si dia il senso dell'intervento diretto del valore della giustizia nel contingente della loro vita quotidiana. Nessuno può sottrarsi al valore della giustizia, anche quando questo comporti quella ipocrisia di fondo, o quello stupore, o quello sconcerto, o quell'orrore di cui parlava Fini all'inizio, anche quando questo sia presente, è giusto, credo, per le ragioni di una società, che sempre prevalga la ragione della giustizia. Io tra l'altro vorrei chiedere al procuratore militare Marco De Paolis, che è il procuratore che sta seguendo anche il caso di Padua del Fucecchio, per il quale ha chiesto l'ergastolo per tre, credo, sono tre gli imputati, procuratore De Paolis? De Paolis? Sì, sono tre imputati. Sono tre imputati, io leggo 94 anni, 91 anni, 88 anni, credo non si siano mai presentati, no? Non hanno mai dato cenno di avere nessun tipo di interesse nei confronti di questo processo, no? No, non si sono mai presentati, non si sono alcuni, due dei tre hanno nominato un difensore di fiducia, ecco, l'unico segnale, ecco, che hanno inviato. L'unico segnale. Ci vuole anche lei, è chiaro che, voglio dire, alcuni reati non cadono in prescrizione, quindi si può anche rispondere, diciamo, codice alla mano a chi dice che, insomma, certi reati dopo tanto tempo possano essere, insomma, vissuti in un modo diverso. Però ci vuole rispondere anche dal punto di vista non solo del codice alla mano, ma anche dal punto di vista del suo lavoro, di quello che fa, che senso ha e che tipo di giustizia è quella che forse manderà a condannare persone che hanno 94, 91 anni, che non si sono mai presentate a questo tipo di processo. Ma io sottoscrivo integralmente quello con le parole che ha ora pronunciato chi mi ha preceduto, sono sacrosante, ecco, credo, perché c'è un significato, dico, ci sarà anche un motivo se tutte le legislazioni del mondo prevedono l'imprescrittibilità di un certo tipo di reati, perché certi crimini sono talmente gravi che non possono essere cancellati dal tempo, possono essere soltanto, dal punto di vista giuridico, cancellati. cancellati dalla scomparsa fisica dei loro autori, cioè dalla morte. Ma ecco, cosa si dovrebbe fare? Altrimenti si dovrebbe, nel momento in cui si viene a rintracciare, a individuare l'autore di questi crimini, si dovrebbe fare finta di niente e quindi continuare a uccidere una seconda volta queste vittime, lasciando comunque senza neanche una sanzione formale di un tribunale di condanna l'autore di questi crimini. Io penso che non abbia senso questo, penso che anche una persona che non sia laureata in legge lo può capire. Mm-hmm. Quindi voglio dire, una sentenza comunque certifica un dato di fatto, è qualcosa anche di più di una banale riparazione morale per i parenti delle vittime? Ma insomma, ecco, io credo che ognuno ha il suo campo di competenza, dico, lo storico fa lo storico e può fare una ricostruzione, ecco, storica di un fatto che può essere anche, diciamo, contrastata da un'altra versione. Una sentenza che passa in giudicato ha un valore legale che non è più modificabile. Questo è il valore. E tra l'altro poi sottolineo che per le vittime, i parenti, i sopravvissuti e i parenti delle vittime, le conseguenze del reato si protraggono nel tempo. Noi abbiamo ascoltato, certo, la voce del signor Malucchi. Il signor Malucchi ha portato per tutta la sua vita i segni tangibili di questo crimine, perché è stato privato della presenza, dell'affetto, della guida del proprio genitore, e questo lo porta fino ad oggi. Quindi questo è la controprova dell'importanza anche a distanza del tempo. C'è un effetto che importante che si verifica, moltiplicato naturalmente per centinaia o per migliaia di persone fino ai giorni nostri. Ma io infatti dal signor Quinto Malucchi, al quale ho voluto far raccontare l'inizio, solo l'inizio, vorrei che ci raccontasse qualcosa di più, se signor Quinto non invadiamo troppo quella che è insomma una sua storia dolorosa che so porta con sé da tutta la vita. Lei quanti anni aveva quando suo padre fu ucciso? Io avevo 7 anni. 7 anni. Però noi c'eramo 6 figli e mio babbo aveva 6 figli, sì. Il più grande aveva 20 anni, la mia sorella Marina, e la più piccola 4 anni, il mio fratello 18, perciò noi, giustamente, come ha detto il procuratore, che io l'ho visto sono andato a Roma al processo a testimoniare, che non ero mai entrato in un'aula di tribunale a 74 anni come mi ritrovo, che i segni giustamente si sono portati per tutta la vita e purtroppo ancora, perché forse sarà l'età, mi emoziono con molta facilità, perché ripenso a quello che io ho fatto nella vita per i figli e tuttora per i nipoti, e che il mio babbo non ha potuto farlo perché l'hanno ucciso all'età di 45 anni. E lei, insomma, 7 anni è un'età in cui un bambino può ricordare tante cose o ricordare poche cose. Ricorda qualcosa di quella giornata? Sì, qualcosa ricordo, perché il mio babbo diceva sempre, i tedeschi, perché non c'era mai stato, il mio babbo la stalla l'aveva alla casa, la stalla delle bestie, tutti i giorni andava a governare le bestie, perciò c'era anche il rapporto, non c'era mai stato screzzi, loro c'erano il cannone nella nostra casa, ci avevano dato l'autorizzazione di sfollare in padule, perciò quando avevano bisogno di fare dei lavori prendevano 50, 30 uomini, le portavano a lavorare e la sera le rimandavano. E mio babbo diceva sempre al mio fratello, che aveva 18 anni, se tu vedi i tedeschi non è scappare, perché se no potresti dare, cioè perché scappa, c'è qualcosa, scappa, ci portano a lavorare e poi dici la sera ci rimandano. Questa mattina alle 6 io dormivo, noi si dormiva in una capanna in padule sulle materasse di cartocci, lo sa che cosa sono cartocci? Sì, certo. Ecco, lì in terra. E io dicevo al mio babbo, se vieni tedeschi, babbo, mettiti sotto di me, io ci dormo sopra e non ti prendano. Non si dormiva quella mattina lì a quell'ora. E quando cominciarono a sentir sparare la mia mamma e una cugina, quella, a un'altra capanna che era a 50 metri dalla nostra, con la scusa di andare a vedere che succedeva, presero 2 fiaschi, ci si va a prendere 2 fiaschi d'acqua. E quando arrivò là, li misero tutti alla parete della capanna, ma non l'ammazzarono. E il mio babbo si andò a rimpiattare, aveva fatto una buca per metterci due maialini piccoli, nel terreno, e si era rimpiattato lì, e l'ammazzarono lì dentro. Perciò non è che sia una guerra, perché una guerra uno cerca di difendersi. Lì erano tutti i contadini sfollati per cercare di ripararsi da rastrellamenti dei tedeschi. Fu proprio un eccidio, certo, di civili senza motivazioni, se poi ci sono motivazioni per uccidere qualcuno in un teatro di guerra, in uno scenario di guerra. Si fermi un attimo, signor Quinti, io devo dare un attimo di pubblicità, poi vorrei chiedere anche di partire dai nostri ascoltatori, Daniele, Matteo, Rosina, che sono lì con noi, ma anche da Mimmo Candido, a capire, ripeto, uno che le guerre, tante guerre le ha raccontate, continua a raccontarle in questi anni, ma spesso si dice che in guerra poi la prima vittima è la verità, insomma, cercare poi di appurare anche che cosa sia successo come memoria storica non è mai facile. Anche da qui vogliamo ripartire dopo un attimo di pubblicità. Alle 9:32 minuti, eccoci qua. Allora, stiamo parlando di giustizia, e che giustizia sia quella che manda a condannare o a processare i crimini nazisti o i crimini compiuti da ex nazisti di 60-70 anni fa, in tempo di seconda guerra mondiale. Vorrei sentire Rosina da Roma che ci ha chiamato. Rosina, sì. Buongiorno. Buongiorno e mi scusi l'emozione. Non ce lo dovremmo neanche porre il problema. Io sono figlia di un deportato e avevo un anno quando stavo rinchiusa in una. Un anno e mezzo quando stavo rinchiusa in una botola insieme a mia madre per la paura di essere presi. Per cui questo è un problema che noi non ce lo dovremmo neanche porre. Non ce lo dovremmo neanche porre, perché significherebbe mettere in campo di concentramento la verità. Però, quante Rosina, questa gente che c'ha 90, 100 anni ne campasse 200, in maniera che il rimorso gli rimanga sulla pelle, peggio della svastica con cui hanno inciso il mondo. Io, Rosina, sono d'accordo con lei sul pensiero, sono in disaccordo sul fatto che il problema non si debba porre. Siamo qua, come vede, a discutere, però insomma la sua posizione è assolutamente ben accetta, però porsi delle problematiche secondo me è sempre invece un sintomo positivo. Intanto la ringrazio, vorrei andare a Bergamo da Matteo. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno, mi sentite? Benissimo, dica. Sì, ecco, io forse ho la fortuna di avere un'età per cui mi ho anche una storia familiare per cui non ho avuto nessun coinvolgimento diretto di parenti né da una parte né dall'altra. E allora ecco che riesco a vedere un po', cerco di vedere con un occhio, diciamo, un po' incentrato sul concetto di verità. Ora, secondo me, se si guarda non con l'occhio di una parte in gioco, quindi né dei vinti né dei vincitori, ma con un occhio di verità, beh, allora tutto questo risulta, secondo me, abbastanza ridicolo e è anche ipocrita. Ma perché, scusi? Perché qua sappiamo, non c'è vinti e vincitori, sappiamo, qua ci sono semmai vittime. In una guerra sappiamo che ci sono state atrocità commesse nei civili da una parte e dall'altra. E beh, Il fatto che vengano perseguite solo quelle che sono state commesse da una parte e non dall'altra è un assurdo. Io sono convinto che tutte le persone di buon senso sono convinto che se avessero vinto i tedeschi la guerra, noi saremmo qua a considerare i partigiani come dei terroristi e andremmo a scovarli e a cercare. Guardi, i procuratori militari perseguono i reati che scovano chiunque li abbia fatti. Questo non so, De Paolis vuole rispondere all'ascoltatore Matteo che dice è una questione di perseguire alcuni reati compiuti da una parte che non ha capito qual è e quelli compiuti da un'altra parte no. Beh, no, le cose non sono nei termini che sta dicendo l'ascoltatore, e anzi questa domanda mi sembra molto opportuna proprio per sfatare, ecco, forse un mito, comunque per precisare alcune cose che spesso vengono dette con inesattezza. La legge non fa delle distinzioni fra per quello che riguarda i crimini, se vengono commessi dai vinti e dai vincitori. Noi abbiamo una serie di provvedimenti di amnistia che impedisce di processare sia i fascisti italiani e i nazisti italiani che hanno commesso delle atrocità, sia i eventualmente coloro che dall'altra parte, partigiani o non, abbiano commesso delle dei crimini dello stesso tipo. Questo è, diciamo, quindi una questione di amnistia. Si possono processare, non so, gli ex nazisti tedeschi o di altre nazioni che in Italia hanno fatto qualcosa. Processare gli stranieri, perché l'amnistia riguarda soltanto i cittadini italiani, questa è la differenza. Quindi non c'è una differenza di regime, non c'è una doppia misura. Beh, una risposta precisa che non ammette nessun tipo di aggiunta, insomma, procuratore, è stato chiarissimo. Cioè, c'è un'amnistia che in Italia vieta di processare cittadini italiani che hanno compiuto questi tipi di crimini, mentre invece possono essere processati solo i cittadini stranieri, e molto spesso durante l'occupazione erano cittadini, erano diciamo nazisti che hanno compiuto delle atrocità in Italia. Mimmo Candido, se io dico, come si dice, come tu ci insegni, insomma, che in guerra la prima vittima è la verità, questo discorso è applicabile rispetto ai processi che vediamo oppure no? Non si può dare, credo, una risposta sì o no, semplicemente perché si finisce per tradire la complessità della realtà. Io credo che quando si dice che la prima vittima della guerra è la verità, si intendono due cose esattamente. Spesso si pensa soltanto alla prima, ma si ignora un pochino la seconda. La prima è che la forza distruttiva della violenza è talmente intensa che finisce per distruggere gli elementi stessi di identità della realtà, per cui la verità non è più accertabile perché viene distrutta da questa violenza spropositata, incontrollabile. Il secondo elemento che però spesso sfugge è che la vittima è la verità, perché le forze e gli interessi che sono coinvolti in un conflitto sono talmente alti, talmente intensi e talmente potenti che i condizionano pesantemente il racconto della realtà, spingendolo da una parte o dall'altra e quindi rendendo impossibile una ricostruzione autentica degli elementi della realtà. Quando il vostro ascoltatore da Bergamo dice quello che ha detto, beh, già individuo un elemento sul quale ragionare e riflettere, e gli dice: ma io non sto né da parte né dall'altra, io sto sulla verità, immaginando che sia possibile identificare una realtà ontologicamente definibile come verità, e quindi sulla base di questo fa un'affermazione di principio che finisce per negare se stessa, dicendo: voi state condannando o comunque giudicando soltanto quelli che stanno da una parte e non quelli dall'altra. A me pare che chi si pone in questa condizione si pone in una situazione di pericolo, di rischio rispetto all'accertamento della verità, perché la legge, lo abbiamo tentato di dire fin dall'inizio, la giustizia è un percorso che accompagna il corso della storia, il senso della storia, il senso della società per tutta la sua vita, indipendentemente dal colore dei soggetti che sono coinvolti, dall'identità, dalla struttura politica dei soggetti che sono coinvolti. Se noi ci rifiutiamo a questa persistenza del valore costante e mi verrebbe da dire eterno del senso della giustizia nella ragione di una società, beh, allora davvero depriviamo la società della sua stessa identità e ci rifugiamo nel nostro stesso particolare, nel nostro chiuso particolare, dicendo: ah, io penso soltanto alla verità e non voglio che si immagini da una parte o dall'altra. No, la verità è una realtà complessa che comprende tutti gli elementi di una realtà e su questi noi abbiamo il diritto e il dovere di giudicare. Il procuratore lo ha detto molto chiaramente: vi possono essere delle strutture giuridiche che impediscono il corso della giustizia per ragioni contingenti, sì, ma la giustizia come tale va sempre perseguita dalla società, perché altrimenti perde la ragione stessa della propria sopravvivenza. Ciascuno penserà a se stesso e alla propria valutazione dell'identità e della verità indipendentemente da un corso che la giustizia, certo, cerca di definire. Io vorrei sentire, ci ha chiamato anche all'800240024 Daniele dalla provincia di Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei dire tante cose, ma ha detto bene il giornalista. Noi abbiamo bisogno di giustizia, che è altra cosa rispetto alla verità. Io che ho 46 anni, non ho vissuto né guerre né tanti problemi, ho la pelle d'oca a sentire queste storie e sono contento che ci sia la giustizia. Quindi è contento, insomma, ed è giusto che ci siano questi processi. Bisogna cercare la giustizia su atti così inimmaginabili, insomma, pensare a morire il padre per Per cosa? No. Va benissimo la giustizia in questo senso. Grazie Daniele, vorrei tornare da Quinto Malucchi che, come ci ha raccontato, insomma, ha perso il padre in questo eccidio di Padule di Fucecchio. E intanto Malucchi le chiedo, non ho chiesto finora, che ne pensa lei di questo processo, che ne pensa lei di questi tre imputati molto anziani, molto vecchi, volti che per lei non significheranno nulla, nel senso del volto non li ricorderà, ma che rappresentano coloro che sono i tre imputati ancora in vita riconosciuti per l'eccidio nel quale è stato ucciso anche suo padre. Che ne pensa di... Senta, io avrei voluto che questo processo ci fosse stato tanti anni fa, però non avendo fatto gli anni passati sono contento che sia venga fatto anche ora, anche se hanno l'età che hanno, che non potranno fare la carcere, però per un senso di giustizia mi fa piacere che possano essere condannati, non tanto per vendetta, perché è passato 67 anni fa, solamente prima di tutto non hanno avuto nemmeno la dignità di presentarsi al processo. Poi noi il 25 si cerca, anche se siamo lontani da Montemano, provincia di Pistoia, a dare a Roma, ritornare anche il 25, perché mi piace sentire quello che hanno da dire l'avvocato. Il 25 maggio, ricordiamo, c'è l'udienza nella quale l'avvocato difensore, un avvocato italiano, prenderà la parola prima del giudizio, quindi il 25 maggio. Voi andrete a Roma per sentire che cosa dirà l'avvocato italiano di questi tre imputati. Sì. Cosa si aspetta che possa dire, secondo lei, che è passato tanto tempo, che non... L'avvocato farà il suo lavoro, il suo mestiere, cercheranno di argomentare, non so, eccomi, sono anche un po' curioso di sentire cosa vorranno dire. E per quel che riguarda invece il processo, il fatto che appunto non siano, non so, cioè la disturbano le persone che dicono, ma insomma sono passati 70 anni, o come Massimo Fini, non so se lei lo conosce, uno scrittore che dice mi impressiona pensare che ci siano dei processi con così tanti anni di distanza, quasi li paragonerei dei processi quasi... È caduta forse la linea con Quinto Malucchi, adesso la recuperiamo. Diceva Massimo Fini, sono processi che mi fanno orrore tanto quanto i crimini che hanno commesso queste persone. Vogliamo sentire che ne pensa Fabrizio da Brescia, poi andiamo alle informazioni sul traffico e recuperiamo Quinto Malucchi. Buongiorno, Fabrizio. Dottor Milan, dica. Io volevo esempio del caso Vallanzasca, no? Che fa abbastanza scuola. Beh, insomma, quando, per esempio, in questo caso non molto Vallanzasca, che c'entra? Eric Priebke, no, c'entra, sì. Perché quando Eric Priebke ha fatto gli auguri alle Miss Italia, si ricorda? Un paio d'anni fa. Sì. Proprio perché, essendo portato alle luci dei riflettori, questo vecchietto così fiero, arzillo e anche a suo modo carismatico, l'ha fatto apparire come paradossalmente quasi una star. E penso che questo possa essere una conseguenza collaterale, ecco, di questi processi. Cioè, quindi lei è critico perché c'è il rischio di trasformare persone che sarebbero dimenticate dalla storia, dall'oblio, dovrebbero essere dimenticate, invece c'è il rischio di riportarle in auge e farle sembrare quasi dei personaggi. Sia molto, come dicevo prima, carismatico, ecco, come Priebke. Ho capito, però Fabrizio, cioè, voglio dire, c'è la giustizia, che non voglio usare una frase un po', che deve fare il suo corso adesso, che Priebke poi venga invitato da qualcuno a far parte di una giuria di Miss Italia, insomma, questo poi rientra nella sensibilità di tutte le persone, poi è stato condannato e poi a quell'età lì non è che lo si può mettere in carcere, però per questo non è che, siccome c'è il rischio di dargli un palcoscenico in un processo, allora non si fanno i processi. E beh, mi sembrerebbe un po' esagerato, caro Fabrizio. Comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi l'ultima parte di 9 in punto. Eccoci qua, l'ultima parte di 9 in punto. Intanto abbiamo recuperato signor Quinto Malucchi. Eccoci qua, signor Quinto. Le stavo chiedendo, insomma, che ne pensa del fatto di queste tre persone, che dovesse arrivare una condanna poi all'ergastolo. Sono persone che appunto non hanno neanche mai manifestato il benché minimo interesse dell'esistenza di questo processo. Questo, che cosa, un'eventuale condanna, cosa le potrà portare a lei? Un risarcimento morale? Mi farebbe essere un po' più tranquillo di avere giustizia verso i morti inutili che sono stati. Questo. Lei che ne pensa dei critici, di chi dicono sono passati tanti anni e quindi non è giusto andare a rivangare storie di questo tipo? Anche l'ultimo ascoltatore ha detto c'è il rischio addirittura di trasformare in questi processi questi personaggi quasi se fossero dei personaggi importanti, no? Meglio dimenticarli, meglio lasciarli dove stanno. No, secondo me no, perché se quelli che vengano invitati a delle giurie di Miss Italia o Compagnia Bella sarà la sensibilità delle persone che le invitano. Io non le inviterei. Se facessi parte di un comitato, questi personaggi non le inviterei. Se poi c'è delle persone che per fare ascolto perseguiscono anche quelle strade, affari suoi. In ogni caso, dice, il processo è una cosa diversa. Mimmo Candito, una domanda che spesso si fa in questi casi è: si può giudicare la storia? Faccio questa domanda perché non a caso, allargando un po' il discorso, proprio oggi il procuratore generale della Corte Penale Internazionale chiederà per esempio per, credo, Gheddafi un mandato di cattura internazionale. Tu sei stato anche in Libia a raccontare questa guerra come tante guerre. Insomma, quando si parla di guerra e quando si parla di tribunali, sappiamo che la storia ha insegnato che c'è sempre un grande dibattito al riguardo, no? Sì, certamente. Io credo che nessuno di noi ignori le perplessità che furono costituite già al tempo del tribunale di Norimberga, quando ci si chiese se fosse giusto, cioè rispondente a un principio alto del diritto, delle regioni del diritto, che a giudicare i responsabili o i presunti responsabili degli eccidi della Seconda Guerra Mondiale fossero gli stessi vincitori, cioè che costituivano i giudici, a costituire i giudici erano stati chiamati elementi che nascevano dai poteri, dalle società che avevano vinto quella Seconda Guerra. E le risposte furono le più varie, ma non vi è dubbio che restò all'interno del corso della storia e del giudizio della guerra la perplessità su quella scelta che fu fatta allora. E questo comunque non cancella, mi pare, quello che è rimasto all'interno del corso di questo nostro racconto di stamani, cioè che non sono tanto le ragioni della vendetta, l'ho detto Quinto Malucchi, c'entra poco forse il senso della vendetta di una persona che ha visto uccidere 70 anni fa il proprio genitore. Ciò che resta è il senso della giustizia, l'ho detto egli stesso con parole molto semplici. L'abbiamo detto fin dall'inizio, ciascuna società intanto ha una capacità di sopravvivenza, di immaginare una propria storia nel futuro, in quanto si riconosce in alcuni principi che sono non soltanto condivisi da tutti, ma vengono riaffermate dalla regione del diritto che interpreta il senso comune, il senso generale. Ora, il senso della giustizia, se non accompagna il percorso della storia di una società, questa società, lo abbiamo detto, sarà un agglomerato di individui, ciascuno coinvolto nei propri interessi personali, ma assolutamente disinteressato alle regioni stesse di quella società, che si presume sia basato sulle regioni della difesa, della giustizia, del diritto, delle regioni del bene rispetto al male. Ora, a me pare che questo nostro dibattito dica molto chiaramente che vi sono sicuramente attenuazioni all'interno della nostra società di oggi rispetto al valore della giustizia, che non lo si intenda dappertutto con un valore molto alto, perché in fondo sono vecchi di 90 anni, una storia di 70 anni fa, vabbè, ma chi se ne frega, vi sono ragioni altre. E noi invece proprio in questo bisogna riaffermare le ragioni dell'esistenza del diritto in questa società nella quale l'evoluzione così drammaticamente accelerata dei percorsi della storia sta modificando le ragioni stesse dell'identità della società. Se non si ripropone, anche di fronte al vecchio di 90 anni, anche rispetto a fatti di 70 anni, un problema che riguarda le ragioni stesse dell'esistenza della società del diritto, beh, credo che il nostro futuro sarà molto limitato. Allora, io vorrei sentire Alberto da Roma. Buongiorno. Alberto, buongiorno. Dica. Allora, sono toscano come il signore al quale è stato ucciso il padre, ho la sua stessa età, ho avuto un padre combattente nella Repubblica Sociale Italiana e ne sono orgoglioso. Adesso non voglio fare un bilancio se siano stati commessi più crimini dall'una o dall'altra parte, bisognerebbe pensare per esempio a Dresda, bisognerebbe pensare ai libri di Gianpaolo Panza. Io faccio solo un discorso di carattere esclusivamente giuridico. Sappiamo tutti che Kappler fu condannato solo ed esclusivamente perché aveva ucciso un numero superiore di vittime rispetto a quello che la legge internazionale di guerra concede, vale a dire la legge internazionale di guerra considera legittime le rappresaglie fatte in risposta ad un attentato proibitorio come erano tutti. Allora perché non considerare veri ed unici ed esclusivi responsabili di ciò che hanno commesso i tedeschi, fra l'altro nostri ex alleati, coloro i quali questi attentati organizzarono? Sì, questo è un dibattito, però Alberto ha sentito poco fa il procuratore De Paolis che ci ha detto che per quel che riguarda perché qualcuno ci ha detto perché si perseguono i reati da una parte e non dall'altra, il procuratore De Paolis ci ha spiegato molto chiaramente che essendo arrivata e sopraggiunta l'amnistia dopo la guerra non si possono processare cittadini italiani che abbiano commesso qualunque tipo di reato, altrimenti verrebbero perseguiti, quindi è una bufala quella di pensare non vengono perseguiti, eventuali crimini commessi dai partigiani piuttosto che da altri italiani. Non si possono perseguire perché c'è stata l'amnistia, si possono perseguire solo reati commessi da stranieri in Italia durante quell'epoca. Signor Quinto Malucchi, lei che ricordo ha ultimo di suo papà quel giorno? Quel giorno è proprio il fatto che quando passarono tutti quelli che l'avevano scampata ci si riunì, ci si andò in una casa colonica di conoscenti e mio babbo non lo trovavano. A me mi venne come un delirio a cominciare a urlare dicendo il babbo è morto nella buca dei maiali, e ci andò la mia sorella e lo trovò lì, preso una carretta a 20 anni, una carretta, lo caricò sulla carretta e lo portò a casa a 1 chilometro di distanza. Quello che l'ultimo ricordo di quel giorno è stato questo. Io su quest'ultimo ricordo che dire, le faccio tanti auguri, insomma il 25 maggio allora sarete quanti a Roma? Si spera perché non è ancora con certezza, perché non è facile partire da Montemaro per andare a Roma. Immagino. Che tutti hanno una certa età. Però insomma io. Fa una certa età. Sì, però immagino che l'occasione sia di quelle insomma che contano. Sì. Si farà tutto il possibile o più o meno di poter essere presenti al processo. Io intanto la ringrazio per essere stato con noi, Quinto Malucchi, che ci ha raccontato questa storia attraverso la storia, i suoi ricordi, insomma di bambino di 7 anni, il padre ucciso. Ucciso nell'eccidio tra Firenze e Pistoia. Pistoia e Empoli, mi scusi, il 23 agosto del 1944. Grazie a Quinto Malucchi, grazie anche a Mimmo Candito, inviato della Stampa, e al procuratore militare Marco De Paolis, che è stato con noi. Che dire, ringrazio ancora sempre Franco Piantanida, Alessandro Marco Tulli in redazione, c'è Valeria Bernardi in regia. Qua cambiano tutti, cambio anch'io, me ne vado a bermi un caffè. Che dire, ci troviamo sicuramente domattina alle 7:20. Tutti tifiamo Oscar. Oscar, dove sei? Oscar Giannino, torna! Il posto è qui, il microfono è questo, la strada la sai. Ti aspettiamo, a domani. 9 in punto.